tutto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Unioni civili, un nuovo rinvio dopo lo stop di ieri del Movimento 5 Stelle, scambio di accuse tra i grillini e il PD, forse verso lo stralcio dell'adozione del figlio del partner. All'indomani degli arresti rimane alta la tensione politica intorno alla giunta Maroni, parla Bossi, temo che Roberto venga compromesso, sospeso dalla Lega il consigliere Rizzi. Sono arrivate pochi istanti fa le nomine della RAI, attese per oggi, proposte da Campo Dall'Orto, direttore di RAI 1 Andrea Fabiano, di RAI 2 Ilaria Dallatana, di RAI 3 Daria Bignardi. La strage di San Bernardino, il giudice chiede alla Apple di forzare l'iPhone di uno degli accusati, ma l'azienda replica: non lo faremo, l'ordine minaccia la sicurezza dei nostri clienti. Sui migranti, Juncker dice la storia darà ragione ad Angela Merkel, intanto l'Austria programma il ripristino dei controlli al confine con l'Italia. Il calcio, la Roma ci prova questa sera in campo contro il Real Madrid per la Champions League. All'Olimpico Spalletti dice non ci sono favoriti. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono effettogiorno@radio24.it per scriverci un'email, oppure il 349-238-6666 per gli sms e per i messaggi su WhatsApp. Dunque, in apertura torniamo a parlare di politica, torniamo a parlare di unioni civili, perché dopo lo stop arrivato ieri del Movimento 5 Stelle al cosiddetto canguro, ossia questo maxi emendamento che consente di saltare una serie di altri emendamenti, una sorta di tecnicismo parlamentare per accorciare la discussione, arriva dunque un nuovo stop, si rinvia tutto la settimana prossima. Sentiamo il momento nel quale il presidente del Senato Grasso lo annuncia. Nella giornata di domani l'Assemblea non terrà seduta per consentire il lavoro delle commissioni. La prossima settimana il calendario prevede come primo argomento, a partire da martedì pomeriggio, l'esame del decreto legge proroga termini e successivamente il seguito della discussione del disegno di legge sulle unioni civili. Senatore Castaldi, ma da quando in qua si interrompe il Presidente che sta leggendo una cosa? Silenzio! E come avete sentito, il tutto accolto da una certa confusione. Dunque, vediamo di fare un punto di questa mattinata con la nostra Elisabetta Fiorito. Elisabetta, buongiorno. Sì Simone, allora la settimana di tempo, una settimana di tempo, è questo il tempo appunto che ha il PD per trovare l'accordo, e lo ottiene dalla conferenza dei capigruppo. Luigi Zanda aveva chiesto in aula lo slittamento di una settimana del disegno di legge sulle unioni civili e nel caos parlamentare la senatrice Monica Cirinnà fa mea culpa. Allora sentiamola. Io mi prendo le responsabilità politiche di essermi fidata di Movimento 5 Stelle, me le assumo tutte. Chiudo la mia carriera politica con questo scivolone, me ne rendo conto, ho sbagliato, pagherò per essermi fidata dei 5 Stelle, perché sicuramente si poteva andare ad altri accordi, ma altri accordi avrebbero svenduto diritti. E quindi io credo che noi abbiamo rispettato il programma del nostro partito, facendo unioni civili alla tedesca con adozione del figlio del partner. Ed è proprio sull'adozione del figlio del partner che si sta discutendo in queste ore, perché Area Popolare continua a chiederne lo stralcio e di trovare l'accordo all'interno della maggioranza. Quindi vediamo che cosa succederà nei prossimi giorni, perché potrebbe essere proprio stralciata la parte delle adozioni. Il Movimento 5 Stelle, dopo lo strappo di ieri sul super canguro, ricordiamo la tagliola sugli emendamenti, dice no al rinvio di una settimana, dice di voler votare il disegno di legge come previsto, e la Lega chiede lo stesso, cioè di andare avanti con il provvedimento, ovviamente però ribadisce il no al provvedimento. Per il premier Matteo Renzi non ci sono dubbi, il movimento ha tradito, e 5 Stelle sono stati contestati ieri anche dai movimenti gay al di fuori di Palazzo Madama. Dietro questa scelta dei grillini però indiscrezioni parlano di Gianroberto Casaleggio, contrario alla stepchild adoption, per catturare l'elettorato di centrodestra dopo lo sfaldamento di Forza Italia e gli scandali della Lega. A te Simone. E grazie ad Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Il Movimento 5 Stelle, poi di tutto questo torneremo a parlare più avanti, commenteremo la situazione politica, stiamo cercando di raggiungere anche qualcuna delle persone direttamente coinvolte, dal senatore del Movimento 5 Stelle Airola alla stessa Cirinna. Il Movimento 5 Stelle, si diceva, resta al centro dell'attenzione anche per le parole di ieri della senatrice Paola Taverna. C'è un complotto per farci vincere a Roma, ha detto a Radio Cusano Campus. Questa mattina Alessandro Milan e Oscar Giannino ne hanno parlato con Roberta Lombardi, sempre del Movimento 5 Stelle. Sentiamo. Ma lei del complotto che ci dice? Esatto, il complotto. Ma diciamo che c'è una strana convergenza, ecco, nel vedere i nomi che sono i papabili candidati sindaci di centrodestra e centrosinistra. Vedi il nome di Bertolaso e sai come sarà la campagna elettorale. Vedi i nomi di Giachetti e Morassut e ti sembra di vedere un film a Marcord in cui il centrosinistra si attacca ai fatti che però furono. È paradossale. Visto che poi ci hanno scaricato 22 miliardi di euro di debiti. Però è paradossale. Lombardi, cioè dovreste essere contenti, dice si vince facile, allora noi siamo contenti ma non siamo cretini, nel senso che uno deve avere anche esattamente il quadro della situazione in cui sta entrando. E così dunque Roberta Lombardi. Noi parliamo adesso di vicende che riguardano notizie arrivate pochi istanti fa e che in parte hanno a che fare con la politica, perché sono le nomine della RAI. Marta Cagnola, buongiorno. Buongiorno, con qualche sorpresa. Allora, la sorpresa più grossa: Daria Bignardi alla guida di RAI 3. Si dava per scontato Andrea Salerno e invece sarà Daria Bignardi alla guida di RAI 3. Ma non è solo una donna, c'è un'altra donna che è Ilaria Dallatana, fondatrice di Magnolia, a Rai 2. Per quanto riguarda Rai 1, Andrea Fabiano passa da vice direttore a direttore. E anche qui una notizia, perché Andrea Fabiano è classe 1976. Gabriele Romagnoli, direttore di Rai Sport. Antonio Marano andrà alla guida di Rai Pubblicità. Qualcuno si chiede cosa farà Giancarlo Leone dopo questo Sanremo di grande successo da Rai 1. Dovrebbe diventare probabilmente coordinatore editoriale dell'offerta di tutte le reti. Da cosa trapelano i nomi? Dalla riunione informale che l'amministratore delegato ha tenuto con i 9 consiglieri di amministrazione, la nomina formale invece domani dalla riunione del CDA. La curiosità è stata che c'è stata un po' di perplessità sui social network, ma anche su importanti testate che al momento dei nomi, anzi dei cognomi, a Bignardi avevano attribuito l'identità di Irene Bignardi, invece era Daria Bignardi che va alla direzione di Rai 3. Allora, grazie Marta Cagnola per questo aggiornamento. Noi restiamo sulla politica per passare alle difficoltà della giunta della Regione Lombardia, guidata da Roberto Maroni, che deve fare i conti con l'inchiesta sulle tangenti che ieri ha travolto il braccio destro dello stesso Maroni, Fabio Rizzi. Un punto su quello che emerge dalle carte e anche il lato politico, evidentemente, che sta diventando preponderante in queste ore. Raffaella Calandra, buongiorno. Sì, Simone, buongiorno. Le carte e il punto di questa storia potrebbe a volte essere anche raccontato da certi dettagli, e un dettaglio significativo è di sicuro il luogo degli incontri dei protagonisti di quest'ultimo scandalo della sanità lombarda, perché Mrs. Mandrake, come è stata anche ribattezzata, come lei stessa si definiva, ossia Maria Paola Canegrati, e Mario Longo, l'uomo vicino al consigliere regionale leghista Rizzi, arrestato tra gli altri ieri e sospeso dalla Lega, avvenivano, come nota il GIP nelle 223 pagine dell'ordinanza, in un bar nei pressi della sede del Consiglio regionale, frequentemente, scrive il giudice. E questa vicinanza anche fisica con il Palazzo del Potere dice non solo simbolicamente della portata dell'indagine, che ipotizza, come ricordavi, l'esistenza di un monopolio negli appalti del comparto odontoiatrico affidato a questa Canegrati, che a detta del GIP aveva a libro paga pure il padre della riforma sanitaria lombarda, ossia Rizzi, bacio destro di Maroni, ma questo dettaglio dice pure della valenza politica che quest'ultima bufera giudiziaria potrà avere in prospettiva. Temo che Roberto Maroni verrà compromesso direttamente, prevede il fondatore della Lega Nord Umberto Bossi, e da subito dall'opposizione è cominciato il pressing sul governatore, che ieri si è detto incazzato e stupito. Da subito questa è diventata inevitabilmente anche materia per la campagna elettorale per le amministrative a Milano, perché anche in questo caso, come in altre inchieste sulla sanità, il punto centrale è il rapporto tra imprenditori e politica. Così, se in un'intercettazione lo stesso stesso Longo ammette che lei, la Cane Grati, dice, che si autodefinisce Mandrake, ha sostanzialmente finanziato al 100% la campagna elettorale di Fabio Rizzi, così dice. I finanziamenti sotto la lente dei PM di Monza sono anche fuori regione, in un altro candidato leghista in Veneto e anche in un altro partito. Si parla dei contatti con Mario Mantovani, Forza Italia, già arrestato in un'altra inchiesta. Insomma, Simone, parleremo ancora di questa indagine e degli effetti che questa potrà avere politicamente. Grazie a Raffaella Calandra anche per questo punto sulle indagini di ieri, la nostra notizia di apertura di ieri. Dalla politica locale, per così dire, ma con riflessi anche nazionali, passiamo a quella europea, perché siamo alla vigilia del Consiglio europeo. Oggi ci saranno le comunicazioni in merito del Presidente del Consiglio Renzi. Al centro delle discussioni ci sono due elementi: l'accordo per evitare l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione e il tema dei migranti. Su questo fronte ci soffermiamo perché resta in primo piano la decisione austriaca di mettere i controlli al confine sud. Salvare le vite dei migranti è un dovere morale di ogni società libera e democratica e l'Italia onora orgogliosamente questo impegno. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo alla 39esima sessione del Consiglio dei Governatori del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo. Salvare vite umane e tender la mano a quanti fuggono dalla guerra o dalla miseria è un dovere morale. Alla vigilia del tanto atteso Consiglio europeo ha parlato anche Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione. La storia ha dato ragione a Kohl e darà ragione anche a Angela Merkel e a me, ha detto Juncker alla Bild, sottolineando che ci sono stati dei primi progressi. Ad esempio in Grecia, adesso, a 9 richiedenti asilo su 10 vengono prese le impronte digitali, a settembre erano l'8%. Ma proprio in Grecia, questa mattina, sull'isola di Chios, è approdato un gommone partito dalla Turchia, a bordo anche il corpo di un bambino di 4 anni che è morto durante la traversata con la sua famiglia. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di migrazioni, oggi per la visita del Papa in Messico è una giornata particolarmente importante. La messa avverrà al confine con gli Stati Uniti. Avrebbe voluto entrare negli Stati Uniti dal Messico durante il suo viaggio dello scorso settembre. Ora sosterrà simbolicamente davanti alla rete che segna la frontiera tra i due stati il Papa, per dire ancora una volta no alla costruzione di muri, di rifiuto, di odio, di indifferenza, esclusione. Ciudad Juarez, sulle rive del Rio Grande, di fronte alla Texana El Paso, sarà questa l'ultima tappa del viaggio di Francesco in Messico. Nella città tristemente nota come la capitale dei cartelli dei narcos, dei femminicidi e oggi anche dei traffici di persona, il Papa celebrerà la messa conclusiva ancora una volta, denunciando ogni forma di violenza. Ad ascoltare le sue parole, fedeli anche dal versante americano, dall'altro lato di quella rete metallica che divide i due stati, eretta dall'amministrazione nordamericana per fermare il flusso di migranti. Alle vittime della violenza il Papa dedicherà la celebrazione, che però sarà preceduta da un altro momento toccante: la visita al penitenziario che ospita proprio centinaia di sicari di diversi cartelli e gang narcos. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torniamo all'Italia adesso, perché è vicina alla chiusura. A quanto pare l'indagine, ne abbiamo parlato tantissimo e abbiamo il dovere di darvi conto di quello che sta succedendo, sulle statue coperte durante la visita del presidente iraniano Rouhani a Roma. Sentiamo. La vicenda era finita sulle pagine dei giornali di mezzo mondo. Ora, a distanza di un mese, si viene a sapere che sarebbe stata la delegazione iraniana a chiedere di velare le statue in Campidoglio in occasione dell'incontro fra il premier Renzi ed il presidente iraniano Rouhani. Dopo una serie di sopralluoghi, gli ospiti persiani avrebbero giudicato imbarazzanti i nudi delle sculture esposte nel tragitto che doveva essere percorso dai due leader. Di qui la decisione di coprirle con dei pannelli, definita poi incomprensibile dal ministro della cultura Franceschini. A prenderla sarebbe stato il cerimoniale di Palazzo Chigi, secondo quanto si legge nella relazione inviata al commissario di Roma Tronca dal sovrintendente romano ai beni culturali Presicce, presente ai sopralluoghi. Da Palazzo Chigi, che aveva avviato una sua indagine interna, per ora non ci sono conferme. L'unica notizia che trapela è che il capo del cerimoniale, Ilva Sapora, finita al centro di qualche polemica anche per altre vicende, ad agosto andrà in pensione e sarà sostituita da funzionari che, diversamente da lei, hanno una buona conoscenza dell'inglese e delle altre lingue straniere. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. È stato presentato questa mattina il rapporto sulle agromafie. Dai ladri di polli alle bande specializzate nei furti di intere mandrie o di carichi d'olio, dall'usura al racket estorsivo, passando per l'abusivismo edilizio e le macellazioni clandestine o il danneggiamento di intere piantagioni a scopi intimidatori. Il fenomeno delle agromafie, cioè della criminalità organizzata nel campo agroalimentare, non risparmia nessun settore, nessun luogo, da nord a sud del paese. È in crescita con 16 miliardi di euro di fatturato nel 2015, dati che emergono dal rapporto realizzato da Coldiretti, Eurispes e Osservatorio sulla criminalità, il cui presidente è il procuratore Giancarlo Caselli. E la loro filosofia è quella di sempre: piatto ricco, mi ci ficco. Nell'agroalimentare c'è da guadagnare, se si gioca con un mazzo truccato si guadagna ancora di più. Ecco che inesorabilmente le mafie ce le troviamo. Ma dal punto di vista della sicurezza alimentare invece gli italiani possono dormire sonni tranquilli. Sono oltre 100.000 i controlli effettuati dalle forze dell'ordine nel 2015 e su questo l'Italia vanta il primato europeo. Ma è un comparto caratterizzato da controlli scrupolosi, severi, efficacissimi, che fanno sì che il nostro paese sia all'avanguardia in Europa. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Parliamo di calcio adesso, con la serata di questa sera che prevede l'incontro tra Roma e Real Madrid, con una super favorita, anche se Spalletti nega. Carlo Genta, ciao. Ciao Simone, sì, Spalletti nega. Non sappiamo dire se sia come quello che urla nel bosco per farsi passare la paura, però intanto mostra grande fiducia. La conferenza stampa di ieri ha detto 50-50 ce la giochiamo. È ovviamente quello che speriamo tutti, si parte dall'Olimpico, un Olimpico finalmente all'altezza della situazione, previsti 60.000 spettatori, quindi stadio pieno e grande miedo scenico, come dicono a Madrid. Per quanto riguarda le formazioni, dovrebbero essere scontate: Roma con Szczęsny in porta, Florenzi, Manolasse, Rudiger e Digne in difesa, Pjanic, De Rossi e Nainggolan a centrocampo, ai lati di Dzeko, El Shaarawy e Salah, che potrebbero essere uomini davvero importanti contro il Real Madrid stellare, perché ovviamente un attacco con James Rodriguez, Benzema e Cristiano Ronaldo forse al mondo non ce l'ha nessuno. Attenzione a Kroos e Modric a centrocampo, che sono molto in forma. Una statistica, insomma, Real è andato molto male contro le italiane negli ultimi molti anni. L'ultima volta che ha eliminato una squadra italiana è stato, se non ricordo male, 86-87 il Napoli. Quindi è molto tempo che le squadre italiane eliminano il grande Real Madrid. Speriamo che la tradizione continui. Grazie Carlo Genta, e ti risentiamo come sempre alle 14 in tutti i convocati. A proposito di unioni civili, un ascoltatore ci dice: ma perché non avete fatto sentire il discorso della capogruppo del Movimento 5 Stelle Nunzia Catalfo? Perché Nunzia Catalfo sarà nostra ospite più avanti e cercheremo di capire come mai il Movimento 5 Stelle si è mosso in questo modo sulle unioni civili. Noi ci fermiamo, intanto c'è il traffico, ci ritroviamo tra un attimo. Il primo argomento che affronteremo è questi prospettati nuovi controlli al confine con l'Austria, che stanno preoccupando soprattutto in Sud Tirolo. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: sulle unioni civili, rinvio a mercoledì dopo lo stop del Movimento 5 Stelle al cosiddetto canguro, scambio di accuse frattanto tra i grillini e il PD, forse verso lo stralcio dell'adozione del figlio del partner. Arrivano le nomine Rai, direttore di Rai 1 sarà Andrea Fabiano, che sarebbe il più giovane direttore della storia dell'Ammiraglia, nato nel 76, di Rai 2 Ilaria Dallatana, di Rai 3 Daria Bignardi, di Rai 4 Angelo Teodoli e di Rai Sport Gabriele Romagnoli. La strage di San Bernardino, il giudice chiede alla Apple di forzare l'iPhone di uno degli accusati, l'azienda replica: non lo faremo, l'ordine minaccia la sicurezza dei nostri clienti. All'indomani degli arresti rimane alta la tensione politica intorno alla giunta Maroni. Parla Bossi: temo che Roberto venga compromesso. Sui migranti, Juncker dice la storia darà ragione ad Angela Merkel. Intanto l'Austria programma il ripristino dei controlli al confine con l'Italia. E poi la meningite, un nuovo caso in provincia di Pistoia, per fortuna non è grave. La Toscana acquisterà 800.000 dosi di vaccino, parte il piano per immunizzare 1,5 milioni di persone. Di questo parleremo tra poco con l'assessore. Intanto voglio salutare Maurizio Buccarella, senatore del Movimento 5 Stelle. Buccarella, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti. Allora, avevamo annunciato poco fa, e lo dico per chiarezza ai nostri ascoltatori, la capogruppo Nunzia Catalfo, che evidentemente ha avuto qualche problema, ma insomma, tanto c'è anche lei e il tema vi riguarda tutti quanti. Questo scontro che sta avvenendo intorno alla questione delle unioni civili e al fatto che voi abbiate fermato il super canguro. Che cos'è? Lo ripetiamo sempre per i nostri ascoltatori, è un tecnicismo parlamentare, per così dire, che consente di saltare la discussione su una serie di emendamenti. Nella fattispecie erano quelli della Lega, che li aveva nel frattempo ridotti da circa 5.000 a 500. Allora, Buccarella, ce la spiega questa cosa, per favore? Sì, provo a farlo in tempi brevi. Grazie. L'emendamento sì. di cui parliamo, di questo super canguro cosiddetto, è un emendamento premissivo, si dice, cioè che verrebbe prima di qualsiasi altro, e per il suo contenuto di fatto azzererebbe pressoché in maniera probabilmente totale, ma questo non lo sa nessuno, ogni possibilità di discussione e di votazione emendativa. Ora, il Movimento 5 Stelle ha detto, ha ribadito più volte che noi compattamente, l'intero gruppo, è favorevole al disegno di legge. Ci siamo lasciati libertà di coscienza solamente sull'articolo 5, quello relativo alla cosiddetta stepchild adoption, sì. E non è un segreto ormai per nessuno sì. che questa libertà di coscienza ne farebbe uso un numero di nostri colleghi intorno al 2-3 unità, quindi una cifra molto bassa. Sì. Cosa è cambiato ieri in aula? E quando nell'immediatezza abbiamo dovuto prendere una decisione noi in aula, quando la Lega ha ritirato questa montagna di emendamenti ostruzionistici che avrebbero di fatto teoricamente prolungato il dibattito per mesi, avrebbero insomma bloccato il Parlamento. Nel momento in cui questi emendamenti sono stati ritirati, la giustificazione anche magari un po' forzata dell'ammettere un super canguro di questo tipo, dal nostro punto di vista è venuta meno, fermo restando che la nostra posizione però, politica è immutata. Sì, cioè, però Buccarella sì. c'è questo dubbio che viene sollevato dalle parti del PD, ma non solamente, insomma, che è il tema che la discussione di merito su questo provvedimento è in corso sostanzialmente da 2 anni e mezzo e all'interno sì. di questi emendamenti un po' ne stanno girando in rete in queste ore. Vi cito, tanto per fare un esempio, quello del senatore Lucio Malan di Forza Italia, no? Sta girando in rete in queste ore, prevede al comma 2 sostituire le parole "è istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso" con le parole "si fa". Il nuovo testo verrebbe fuori così: presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano si fa sesso. Allora capisce che questa non è una discussione di merito, no? Sono sicuri, se io non lo capisco, perché emendamenti del genere in commissione giustizia di cui faccio parte ne ho visti a migliaia di questo tipo. A emendamenti di questo tipo, dal tono ostruzionistico, a volte provocatorio, si risponde semplicemente con un voto negativo. Cioè, qual è, oltre a stigmatizzare insomma il livello ridicolo in cui l'azione politica di taluni colleghi, di alcuni gruppi parlamentari si svolge, si vota no, e noi dal nostro punto di vista siamo pronti a iniziare a votare da adesso, come abbiamo fatto come richiesta pochi minuti fa, la seduta si è conclusa pochi minuti fa qui in sì. Senato. Noi diciamo, votiamo, quanti sono? 600 emendamenti? Beh, nelle riforme costituzionali siamo riusciti a votare fino a 800 emendamenti al giorno, quando si è voluto. Noi diciamo, votiamo, noi ci siamo come ci siamo sempre stati, come indicazione di voto, perché ormai è palese. Noi scoraggiamo l'utilizzo del voto segreto, anzi sì. sarebbe bene che il PD utilizzasse la sua moral suasion, diciamo così, sì. nei confronti del Presidente Grasso, per eliminare... Voi vorreste tutti i voti palesi qua? Ma sì, ma finalmente, ma il paese vuole questo. Io penso che gli italiani, sia quelli direttamente interessati a questo disegno di legge, che a quelli che seguono con maggior distacco, vogliono finalmente una politica chiara, trasparente, senza sotterfugi. Noi è questo che vogliamo, e per questo non ci possiamo prestare a sotterfugi. Allora, Buccarella, mi dice solo una cosa, lei personalmente Come vota sull'adozione del figlio del partner? Io personalmente sono favorevole all'articolo 5 così com'è. Sono favorevole, sono completamente favorevole. La ringrazio, grazie a Maurizio Buccarella, senatore del Movimento 5 Stelle, e Stefania Saccardi, assessore alla salute della Regione Toscana. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, per parlare del tema della meningite, oggi si è registrato un nuovo caso in provincia di Pistoia, a quanto pare la persona non è grave e questo ovviamente è un bene, però sta partendo un piano massiccio di vaccinazione, si parla di una copertura che deve raggiungere 1,5 milioni di persone. Avete ordinato 800.000 nuove dosi, ci dice assessore come procederete? Ma stiamo procedendo appunto, come lei giustamente diceva, ad una vaccinazione di massa delle persone che sono residenti, che si trovano nel territorio della Regione Toscana anche per motivi di studio, perché abbiamo ritenuto che comunque di fronte a un fenomeno che ha una sua particolarità, nonostante non rappresenti una vera e propria epidemia, si potesse intervenire con una vaccinazione di massa che ci consente di evitare al massimo il verificarsi di nuovi casi. Quanti casi sono da quando è iniziato, diciamo, se ne è iniziato a parlare, dall'inizio dell'anno, direi? Ma sostanzialmente noi abbiamo avuto in relazione a questa particolare, al meningococco C, in questa variabile ST11, che è quella di cui stiamo parlando, abbiamo avuto 31 casi nel 2015 con 6 decessi. Ne abbiamo avuti 10 nel 2016 con 2 decessi, ad esclusione di quello che si è verificato stanotte, che è ancora in corso di tipizzazione. Sembra che sia appunto il solito batterio da meningococco C, ST11. Sì. Lo stesso ceppo, in ancora, sostanza. Lo stesso ceppo, però ancora non abbiamo i risultati del Mayer, che è il laboratorio più raffinato che fa la tipizzazione più precisa. Ci dà i tempi di quando contate di chiudere questa operazione di vaccinazione, Saccardi? Ma è una domanda a cui è difficile rispondere, perché noi abbiamo la vaccinazione aperta da aprile del 2015 e naturalmente ogni volta in cui si affievolisce la notizia e non si verifica per un po' casi di malattia, l'afflusso alla vaccinazione si abbassa e poi dopo si alza enormemente non appena si verifica un nuovo caso di meningite. Quindi noi speriamo che adesso la gente capisca che il senso della prevenzione sta nel fatto di doversi andare a vaccinare, sì, anche quando non c'è, sì, il caso conclamato. E quindi si possa in qualche mese riuscire a vaccinare un po'. Abbiamo adottato entro l'estate. Abbiamo adottato una delibera ieri nella quale abbiamo diciamo determinato la campagna vaccinale fino a settembre. Fino a settembre, benissimo. Vedremo come andranno queste cose e poi quali saranno le indicazioni operative. Immagino ci sarà anche una campagna di comunicazione da parte della Regione Toscana su questo. Grazie a Stefania Saccardi. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade. Poi dopo torneremo a parlare di unioni civili, più che altro con un'analisi politica con la collega del Sole 24 Ore, Lina Palmerini. E poi, come si diceva, parleremo di questi nuovi controlli che l'Austria vuole ripristinare al confine con l'Italia. Lo faremo col Presidente la provincia autonoma di Bolzano, quindi quelli direttamente interessati, per così dire, tra un attimo. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi. I nostri titoli: sulle unioni civili, rinvio a mercoledì con scambio di accuse tra i grillini e il Partito Democratico. Nominerai direttore di Rai 1 Andrea Fabiano, classe 1976, Rai 2 Ilaria Dalla Tana, Rai 3 Daria Bignardi. Migranti, Juncker, la storia darà ragione ad Angela Merkel, intanto l'Austria programma il ripristino dei controlli al confine con l'Italia. La Roma ci prova questa sera in campo contro il Real Madrid per la Champions League all'Olimpico. La borsa. Effetto giorno. E siamo dunque a parlare di migranti e di questa ipotesi rilanciata ieri dall'Austria di aumentare, incrementare, ripristinare i controlli su tutta la frontiera sud ed evidentemente anche sulla frontiera con l'Italia. Arno Compacer, presidente della provincia autonoma di Bolzano, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, come l'avete presa questa ipotesi? Beh, questa ovviamente è una brutta notizia. la conseguenza della mancanza assoluta di una linea comune degli Stati europei e della mancata attuazione dell'accordo di Schengen, che vuol dire confini liberi all'interno confini controllati e garantiti verso l'esterno. Questo non è avvenuto e perciò adesso singoli stati che hanno fino adesso dovuto affrontare maggiormente questa crisi dei profughi si muovono singolarmente e questa adesso è la conseguenza anche per noi. E che problemi vi può creare un fatto di questo genere? Beh, abbiamo incontrato ieri come Regio Tirolo su Tirolo Trentino, perché noi ci muoviamo comunque in uno spirito europeo, noi continuiamo a credere nei valori europei e anche nell'accordo di Schengen. Abbiamo incontrato la ministra degli interni austriaca Mikl Leitner proprio per chiedere maggiori informazioni richiedere anche un coinvolgimento nella pianificazione e gestione dei controlli per minimizzare i riflessi che può avere sul traffico e sulla libera circolazione delle persone. L'idea è che li possiate fare congiunti questi controlli, perché insomma da là, dalle parti vostre, ci passa veramente tantissimo, non passano solamente tantissimi esseri umani ma anche tantissime merci, quindi il problema può diventare notevole se i controlli diventano macchinosi, no? Assolutamente, per adesso per quanto riguarda i flussi diciamo migratori la situazione è molto calma, abbiamo forse 50 persone al giorno, mentre sulla rotta balcanica parliamo di 100 volte, diciamo fattore 100, però diciamo si aspetta che ci potrebbero essere un trasferimento di questa rotta balcanica verso ovest, per quello l'Austria prende le misure. Ovviamente abbiamo sul Brennero 2 milioni di camion ogni anno che attraversano il valico e per quello ovviamente è un confine particolare, e questo l'hanno fatto presente anche alla ministra competente austriaca e perciò ci vuole una gestione particolare che salvaguardi anche la possibilità diciamo per il trasporto merci e anche per il passaggio delle persone. Certo, perché se ripristini i controlli su 2 milioni di camion all'anno non se ne esce più. Non se ne esce più, sarebbe programmato il caos totale. Noi comunque chiediamo che ogni misura debba avere un carattere assolutamente temporaneo per affrontare adesso questa situazione anomala, perché Schengen va ripristinato subito e finalmente gli stati europei devono darsi una mossa, e questo ovviamente va rivolto anche allo Stato italiano, perché anche qui bisogna adesso adottare le misure conseguenti, salvaguardando maggiormente anche i propri confini esterni. Certo. In collaborazione con gli altri stati europei, se no abbiamo un caos. La ringrazio, grazie Arno Compace, presidente della provincia autonoma di Bolzano, per essere stato con noi su questa idea dell'Austria, appunto, di ripristinare, di fare controlli più intensi sul confine sud. Lina Palmerini del Sole 24 Ore, ciao Lina. Ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, come se ne uscirà, secondo te, da questa vicenda delle unioni civili dopo lo stop al supercanguro, cosiddetto supercanguro, lo abbiamo ripetuto praticamente per tutta la puntata, che cos'è questo tecnicismo parlamentare che permette di scavalcare una serie di emendamenti, lo stop al supercanguro da parte del Movimento 5 Stelle, questo rinvio a mercoledì, secondo te come ne uscirà la maggioranza? Ma guarda, mi sembra ci sarà una ripartenza, diciamo un nuovo inizio la prossima settimana. Il PD ha scelto di prendersi questi giorni di riflessione, in realtà perché il Movimento 5 Stelle ha complicato la vita politica di Renzi. Il PD si ritrova da solo a difendere una legge che su un aspetto in particolare, anzi forse solo su un aspetto, quello dell'adozione del figliastro, è fortemente impopolare. Tutti i sondaggi raccontano che la maggioranza degli italiani non è a favore di questa norma, ed è questa anche la ragione per cui il 5 Stelle si è smarcato, prima con la libertà di coscienza data da Grillo al gruppo dei 5 Stelle e ieri con lo stop al supercanguro. A questo punto a Renzi non gli conviene mantenere il testo così com'è, quindi probabilmente io credo si arriverà o a una correzione dell'adozione del figliastro oppure a uno stralcio. Addirittura uno stralcio. Questo non creerebbe ulteriori problemi allo stesso Renzi, soprattutto con l'ala sinistra, per così dire, del suo partito? Ma guarda, in realtà il PD è molto spaccato. È vero che lui voleva, come si dice in gergo, coprirsi a sinistra, cioè coprire il fianco sinistro dei voti a sinistra, ma adesso che non ha più neanche la sponda politica del 5 Stelle, l'adozione del figliastro rischia di essere bocciata al Senato con il voto segreto, perché un voto segreto ci sarà. Non sappiamo neanche quanti sono realmente i dissensi all'interno del PD. Sappiamo che appunto non ci si, il PD non si può più fidare del 5 Stelle, quindi diventa poi veramente una sconfitta non solo nel paese ma anche una sconfitta parlamentare. Ricordiamoci che poi Renzi è lo stesso che andò al Family Day nel 2007, quindi anche Renzi ha una matrice diciamo più cattolica di centro, non so neanche lui fino a che punto in realtà sostenga questa norma che poi è l'articolo 5 del testo Cirinnà. Grazie a Lina Palmerini, analista e commentatrice del Sole 24 Ore, per questo punto. Vedremo dunque come andrà a sfociare a questo punto tra una settimana che ovviamente sarà fatta di molte trattative all'interno della maggioranza e non solo. Ci occupiamo di una vicenda che vi avevamo già accennato nei titoli, la vicenda della Apple, la strage di San Bernardino la ricorderete, il giudice ha chiesto all'azienda di forzare l'iPhone di degli accusati, l'azienda replica: non lo faremo, non vogliamo mettere a rischio i clienti. Sentiamo. Rimangono ancora molti misteri sui terroristi che il 2 dicembre uccisero 14 persone e ne ferirono 22 a San Bernardino in California. L'FBI è convinta che molte risposte siano contenute nell'iPhone di Syed Rizwan Farouk, uno dei terroristi, e dopo aver tentato di forzare il PIN di protezione, ha convinto un giudice a ordinare all'Apple di collaborare. Secondo il giudice, l'azienda è l'unica ad avere le capacità tecniche per violare lo smartphone e aiutare quindi i federali. In particolare, l'FBI vorrebbe che Apple disattivasse la funzione di protezione dei contenuti così da permettere agli investigatori di tentare l'accesso utilizzando infinite password. Mentre normalmente se viene inserito un PIN sbagliato più di 10 volte, l'iPhone si blocca. Apple ha sempre dichiarato che non esiste tecnicamente questa possibilità e questa volta Tim Cook in persona ha scritto una lettera spiegando che un software di questo genere creerebbe un precedente pericoloso. Apple dice in sostanza che creare un sistema in grado di bypassare la sicurezza dell'iPhone potrebbe mettere a rischio le informazioni di chi usa gli smartphone se questo finisse nelle mani sbagliate. E il principio è così prezioso per l'azienda che deve essere uguale per tutti, anche per un terrorista. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, poi come sempre c'è America 24, il nostro Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.